Siediti in una posizione comoda, fai qualche respiro profondo. Immagina la cartina geografica dell'Italia, come nella foto della locandina. Immagina l'energia spirituale del denaro avvolgere la nostra nazione, spazzando via gentilmente la povertà, l'avidità, la scarsità di risorse, e il materialismo egoico, e fine a se stesso. Immagina una lieve pioggerellina dorata di energia spirituale, specifica per il denaro, scendere lievemente sulla nazione, immaginala come i simboli dell'euro e del dollaro, giallo dorati cadere su tutti, sui affamati, sui bisognosi, sui malati, che necessitano di cure mediche costose, sugli operai e sulle casalinghe, e ovviamente sui pensionati ai minimi. Immagina questa pioggia, che si distribuisca per il 40% al meridione, dalle isole siciliane fino a Napoli, per il 35% da Napoli fino all'altezza di Bologna, e per il 25% al nord italiano restante. Ogni italiano originario, o che vive in Italia sia energeticamente trasformato. Ognuno ha adesso ciò di cui ha bisogno, senza togliere nulla agli altri. Gli affamati sono saziati, i poveri trovano magicamente di che vivere con maggiore dignità. Le istituzioni, e le associazioni umanitarie serie, vengono rivitalizzate in istituti, o intraprendono iniziative, che danno maggior valore e nuova dignità al lato umano. Ognuno ha la possibilità di seguire il proprio ideale, e di essere se stesso, grazie alle risorse finanziarie adeguatamente aumentate su ciascuno. Visualizza infine l'Italia in pace, felice, ricca finanziariamente, e piena di generosità e di amore. Grazie.